10, pensate al canale 10, c'è qualcuno? Hola? Chiamate, sono Claudio, e beh, sì, ti ascolto bene, non, niente da dire. Ah, ti ascolto perfettamente, radio 5, il segnale superi 9-10. Ah, ti ascolto perfettamente, la radio è giusta come modulazione, non ha difetti, naturale, come piace a me, non posso dire niente, pulita e chiara, e l'intensità della modulazione è più che buona, non è fortissima, però sei nei parametri, diciamo, più che sufficiente. Sì, aspetta un attimino però, dammi un minutino e cambio... Ok, siamo in AM, quindi siamo ritornati. Giulio, volevo dire, noi eravamo in banda laterale, tu forse eri ancora in AM. No, lo vedi, in banda laterale, ma in USB. Sì, USB, tu probabilmente stavi parlando in AM quando hai mandato il messaggio. No, ero in banda laterale, ma ero spostato. E allora eri leggermente spostato perché non ti sentivo bene. Infatti sarà per quello, sicuramente. Ero a 75-20, ti puoi immaginare. Via. Ok, mi ha mandato il messaggio, riprendete voi, mi guardo il messaggio di Claudio Di Muroso che mi ha registrato. Claudio, ok, avanti. Vabbè, tutti i fuggiti di chi c'è? Orbito musicale passa sul 5, un attimo. Non ho capito, a chi hai detto? No, ce l'avevo con un altro, ce l'avevo, conosco il beat. Devo passare sul 5, scusate un attimino. Ok, va bene. Claudio, ci sei ancora? Sì, sono tornato, perché stavo accorgendo che ho sollevato un pochettino la conferenza, ho sollevato perché se non mi sembra un passo che sta modulata, quindi sono pensato di arrivare, non so che non c'è il microfono originale, ok? Allora, io ti ascoltavo perfettamente anche prima, il segnale adesso hai guadagnato 10 punti, sei 9,25, va più che bene, dai, andava bene anche prima, comunque non c'è problema. Antone, tu c'hai una bella radio, però tutto che fa brutto, non mi piace niente. E ho comprato ieri la metatore nuovo, ti ho detto, adesso domani mattina tolgo quello e ci metto l'altro, usiamolo quello non fa casino. Ehi, sembrava in una fonderia, cacchio, con molette, compressori, eccetera. Lo so, cosa vuoi che ti dica? Non ci posso fare nulla. Domani mattina stacco quello lì e metto il nuovo, quello da 30 ampere. Ehi, Claudio, l'ho sentita la modulazione buona in banda laterale, la mia, non mi sono mai ascoltato la prima volta, però posso dire che è pulita, chiara, non ha imperfezioni, dai. Sì, se ne sta parlando un'altra, sì, no, bella, la radio è bellissima, mi piace, è molto, molto carina, dai. Niente da eccepire, vediamo se c'è qualcuno nel frattempo qua che vuole entrare su questo canale 10, avanti che vuole entrare, nulla, adesso fa una cosa, siamo tutti sempre in AM, adesso ritorno alla mia solita radio, memorizza questo tipo di emissione, Claudio, e mi confronti con questa radio che entro tra poco. Sì, sono marciscono che a un certo punto cominciano a dare il difetto, è un casino. Allora, questa è l'altra radio, quella che uso solitamente. Com'è? Cosa notate di differenza? Vai Claudio. No, l'altra mi piace di più, rompe, l'altra è un'altra cosa. E questa è forte, però l'altra quindi di più, c'è modulazione che dice Santiago. Vediamo cosa ne pensa Antonello, riprendi Antonello. No, molto meglio questa di radio adesso. Esce molto, molto più forte. C'è da dire, bisogna ascoltarle però con un altoparlante di qualità esterna, io tutti i raffronti li faccio con l'altoparlante esterno, quando l'ascolti con l'altoparlantino del baracchino ti inganna molte volte, perché uno dice sì, bella, chiara, perché magari ti dà tanti acuti, invece poi magari è una scatoletta. Ok, comunque questa è la solita mia radio che utilizzo sempre, e l'altra era un'altra che stavo provando, che prova molto bene in banda laterale. No, questa già è buona lo stesso, buona, ha voglia. Ok, Ok, vediamo un pochettino un altro passaggio su 10, se c'è qualcuno che vuole entrare, lo facciamo venire avanti, se no riprendi tu Claudio, avanti. Vai, vai Claudio. Sì, 5 stelle, roba. No, ho piazzato, avevo messo il microfono, c'è un partito rosso, che non c'è quello che l'ho più bieco, come fatto, e mi sfugge di mano ogni tanto per non farla schiacciare, e no, non so se c'è qualcuno che vuole entrare, fa sempre quel gravito, avanti con la buonasera, se c'è qualcuno che vuole entrare più bieco. Quello che prima di Porto Torres c'era una bellissima radio ed era con un antenino, con una mini Gran Premio a Porto Torres, dico, stava arrivando bene, più di 9 c'aveva di segnale, molto pulita la modulazione. Complimenti infatti alla persona, questo Mario, mai sentito, non l'ho mai sentito. Sì, lo sentiamo bene anch'io, Roberto, che l'ho passato, però mi sentivo anche lui, che ho passato come adesso, però l'ho passato perché dove la passavo, capito, infatti ho passato sempre una cantina più parte per farmi sentire tutte le zone lì, no, ecco, se sono stato sul 5 c'era un amico suo, non lo so chi sia. E ritornando a lui, questo segnale rispetto a prima è più basso, mi confermi Claudio? Senza modulare, manda confortante e mi fai vedere il segnale, perché questa radio praticamente quando parli rompe, mi torna tipo come faccio del podcast, tipo tutti negativi, quindi da quello che ho fatto quel giro, che manda confortante e dico qualche segnale. Ora, così è con la modulazione. Ma sono positivi i picchi, non sono negativi. Sì, no, è fatta così la mia radio, Roberto. Okay. Allora, il segnale 925, da noi sono moduli, se ne prendiamo 9, ma il segnale 925, fammelo vedere con l'altra radio, che è la stessa, se ti viene bene. Allora, questa è l'altra radio. 1, 2, 3, prova radio. Manda solo portante. 1, 2, 3, prova radio. Sì, manda solo portante, Roberto. Okay. Questa arriva quasi al 9.30, e cioè, allora praticamente l'altra era 9.25, quindi arrivava dove c'era di più, e questa sfiora il 0, che quindi va più vicino appena appena dell'altra, che sta arrivando poco fa, e la modulazione è sempre buona, perché 5.5, non è sempre così diritta, e è troppo bassa, Roberto, io dico che riesce con questa, riprendi. Ehi, sto guardando il segnale. E abbiamo di segnare la potenza più o meno uguale, ritorno con l'altra comunque. Ehi, sono qua, sono qua. Suia. Cosa detta, Questo è diventato, Ah, l'FM 500. Ma te l'ho passo Claudio, dopo me lo dici. Adesso capometto. L'ho fatto io, ma ho detto Claudio, se l'ho passato Antonello, scusate, ho fatto un passaggio breve sopra di te, l'ho passato o lui mi passa lui? L'hai passato di appena, l'hai, però io sono grazie anche di forse, perché attualmente sono sopra tra le gioca, quindi il tiro di posizione rispetto a te, però l'hai passato, e però fa grazie anche la forse, ti ho provato pure io, ti chiedo scusa Antonello, ti ho provato anch'io, di provare, ma Roberto non mi ha sentito, non ce l'ho fatta a passarti, anche perché sei più in alto, molto più vicino a Roberto, comunque Roberto tu l'hai passato Antonello, perché Antonello mi sta arrivando 9 mesi, tu ci vuoi 25, quindi l'hai passato di appena, perché sei visto da niente, riprendi. Antonello, con la posizione che c'ha, se si mette l'antenna almeno a 4 metri di altezza, non dico a dirsi, 4 metri e lui fa danno, perché di lì c'è una, domina tutto, c'è una posizione allucinante. No, no, tu Antonello qua è impossibile, qua se 9.60 arriva, tu arrivi 9.20, tu è impossibile, riesci ad andare, devi mettere 4 kW per passare a lui. Se dovevo di 4 metri faccio la fine di checco, faccio qua, con il neppolare di adesso specialmente, che sono in mezzo al triangolo delle Bermude qua, tra i ripetitori telefonici e la 15.000 e come si chiama, e poi la formula del salatore del Conti, tu sei pazzo, per quello che l'ho abbassata, capito? Prima era 4, più di 4-5 metri era la Mantova. Alla fine ogni notte, cioè, quando faceva tempo c'avevo una paura, capito? Specialmente quando faceva vento, me. Quindi ho preso, ho abbassato tutto, almeno ci arrivo direttamente con la scaletta, non devo stare in volta, a Zaffara, rubalo. Già lo so, la Mantova è quello il problema, però per farle radiare e rendere deve di sollevare almeno 4 metri dal punto più alto del terrazzino o del tetto, se no non irradia. Magari con una game master non è necessità, bastano un paio di metri e riesce a irradiare comunque, ma per concezione la manta vale di sollevarla almeno 4 metri dal punto più basso, cioè dal punto più alto, non più basso. Vai te Claudio, a te il mic. Vabbè, Claudio ha sempre avuto posizione eccellente, poi è molto in alto, adesso è ancora meglio di prima, secondo me è più aperto ancora, poi a te, cacchio, ti vede, l'antenna tua la vede, perché lui ha superato quella collinetta che magari poteva dar fastidio, adesso è tutto aperto, da lì spara che è una meraviglia. Ok, però l'importante è farsi ascoltare, non ho il segnale suo, ma già mi difendo anche io nel mio piccolo. Sì, assolutamente, ok, anche tu non sei male. Rispetto a dove si trovino si male, già sorello, rimane forte tutti, più uranio, vabbè più uranio è solo vicino, ma rimane bene tutti, rispetto a dove si trovate, Roberto, quelli che sono lontani, mi arrivano bene, anche cose mi arriva bene rispetto alla zona dove si trova, Antonio Mombo, ha fatto progressi anche lui, li prendi Antonello. Sembrava la abitare in via Rizzetto, di fronte a Maricome dove abitavo prima, ti faccio vedere che ci avevamo trovato anche a Claudio, non solo l'altro. Da lì sì che uscivo a fonte, era tutto aperto, arrivavo sino al tempio, da quel palazzo dove abitavo prima. L'unico che mi sovamo trovato a me era Roberto, adesso non mi ricordo più il nominativo, che rimaneva proprio di fronte a Pilo, l'officina che c'è metallica, in quella palazzina di 7-8 piani. L'unico era lui che mi sono ammalorato con la Firenze 2 di quella caricata, figurati tu. Lui con 100 watt, io lo stesso, intanto mi sono ammalorato dove voleva e come voleva. Però era una bella zona quella, in confronto a dove sono adesso, qua sono tappato, c'ho la collina, capito? Sembra che sono in alto, ma sono in basso qua io. E vabbè, è una bella posizione, una bella voluta. Dimmi una cosa, mentre l'uranio ti arriva più forte di me e di Claudio? Migliorato nella zona tua rispetto a dove era prima. Così come mi arrivava prima era monoscala, mi arriva adesso, capito? Però adesso è sempre monoscala, siamo 9.40, 9.45, un anno adesso lo sto trattando, là, anche lui arriva con quel segnale, ma perché c'è un vicino, capito? Io arrivo bene a lui e lui arriva bene a me, capito? Poi c'è una furia che con l'uranio intermettere per costieri, di come sono lì, infatti io e lui siamo gli unici che riusciamo a farci ascoltare bene, perché se loro arrivano solo dalla sì, sono sicuro, infatti, che mi ascoltano. Adesso quando metto l'altra antenna probabilmente qualcosa di meglio lo faccio, no? Aurelio dice che lui parla anche con Tempio normalmente, senza nessuna indecisione. Sant'Antonio è in basso, non è che dire che stai parlando con Tempio, il tempo è molto in alto. Sant'Antonio è una vallata giù. Sì, infatti questo era Sant'Antonio di Gandura, eravamo su quelle frequenze alte, 10 che vuole entrare, niente, vediamo se Francesco è rientrato. Avanti Francesco. Oggi sono entrato, sì, ero passato su 5 per vedere uno se entrava, invece appare che non abbia buia. Alla prossima. Perfetto, ecco le formazioni, diciamo, soprattutto in Gallura, non l'ho mai sentito, non lo so ma cosa arrivo, ma può darsi di sì. Sì, sì, sicuramente, sì, magari non arriverà forte, ma sicuramente arrivo, diciamo, con qualche segnale arriverò. Perfetto, va bene, vediamo un po'. Riprendi Antonello Bellotto. Poi Aurelio ci va molto bene tanti anni fa, negli anni 90. Cioè, quell'appartamento dove abitava prima era lì, si chiamava, tra lui e l'unico che si sentiva la Maddalena era lui, cioè Walter e Aurelio, basta, non c'erano altri. Quando ti arrivate Francesco ancora? Prova Francesco, do un controllo. Tu Antonè, altre volte mi arrivava anche roba, anche di più di roba, adesso mi sta arrivando 7-8, mi sta arrivando, ok, perfetto, no, io ho cambiato, non sono appartamento, io abito sempre nella stessa zona, Quanto è che mi arriva? Sì, ma per cambiare appartamento, da Urano? No, stesso posto, ok, quindi... Pensavo di più, ci arrivasse più forte, tu. Come ti arrivo, te cambi, tu arrivi qua un segnale di 8, 7, 8, e una rete di bassina però la radio, rispetto a come ti sentivo una volta, arrivi un po' più di radio, vabbè, comunque la tua radio è 3 qua, alza un po', dopo la te cambi la tua radio, senti? Sì, segnale 9 qua, radio 5, c'ho la radio un po' bassa perché c'è la ventola dell'alimentatore cinese qua, capito? E si sente un bel, e quindi me la porto appresso, tutto lì Aurelio. Avanti, Muros. Thank you. entrato avanti Claudio. No, sono entrato solo a Seul tardi. Francesco c'è il tuo segnale qua, quindi è 9:30. Abituato a sentirlo Santiago 8-9. 9:30, ciao Francesco, buonasera, ben ascoltato, ciao anche a Claudio, un po' meglio a te, dai. Le mandi in ascolto, avanti Francesco, io ti arrivo bene. 9:30 mi faremo, è sempre la tua solita radio, potentissima, non c'è niente da dire qua. Ok, perfetto. Ok, dai, siamo molto più vicini e siamo più a vista ottica. Io sono su nella zona alta di Serra Secca adesso, ho capito, non sono più a Carbonazzi. Va bene, quindi veloce, finalmente, prima non lo vedevo. Va bene, dai, ci sentiamo in un'altra occasione. Buonasera a tutti e buon proseguo di questo. Il cambio per te Roberto, fai girare. Ciao Claudio, saluti a casa. Riga, sei rientrato ai tempi d'oro, questa è la radio top, numero uno. Non parlo di segnale, quello non c'è problema, parliamo qualità di emissione, bella, pulita, senza risoluzione, come piace a me. Perfetta in tutti i sensi, perché l'altra volta se non avevi quell'apparecchietto, quella sistemazione che hai messo, era qualche problemino, c'era qua, sì, pulito, non ha nessun disturbo. 100% positivo. Ok, ti saluto Claudio, ti rilancio l'altro Claudio Di Muros per i saluti, poi Antonello. Anche se a me il segnale è diminuito naturalmente ed è un vantaggio a chi era troppo forte, arrivava molte volte, cacchio, mi dava anche problemi, dovevo attenuare. Va benissimo un segnale di 9:35, per cui ce n'è per i pulci. Antonello, quando attacchi avvisa prima, così spegniamo il coso, i baracchini, che sei già quasi 9:60, figurati se attacchi qualcosa. No, sto aspettando, me ne vanno a mandare un coso, un piemonte capitolare, e quindi sto aspettando che arrivi. Dopodiché adesso in questi giorni mi riparo il coso lineare, quello che ho io, tassitorizzato, il BV2001, cambio cavo, così piloto il chevodo col lineare transistor, capito? Mi faccio l'ingresso 15 watt ed esco con 400-500 watt d'uscita. Che cosa devi fare? Sciogliere qualcuno? No, la centralina del condominio voglio sciogliere più che altro, almeno la cambiano, perché ogni tanto va in tilt e mi tocca andare a registrarla a casa e cominciare a fare a dare i numeri, capito? Mi tocca sollevare, siccome il tecnico ha messo la centralina di quella seconda mano, quando ho telefonato ho detto ma a casa di catalogo bloccare l'hai messo, dice una centralina che c'avevo, mi ha detto no, ecco perché gli ho detto ogni tanto gli ho detto se ne va a fanculo mi tocca andare a sollevare. E ya, riprendi tu Claudio Muros. Facciamo i fiammiferi e ce li prendiamo. Io sono andato al quadrato, visto che dove si parcheggia di solito la Matterland, c'è il rubinetto dell'acqua, no? È sopra, e sotto c'è quello del gas. Sentivo questo odore di gas, cazzo, non è possibile che ci sia questo odore di gas, ma forte. E cos'era? Qualche ragazzino ha preso e ha aperto il rubinetto del gas, aperto. Poi se ne sono passati i vigili, hanno preso, hanno serrato. Allora, la settimana scorsa hanno tracciato un tubo dal gas dalla rotatoria dei vigili del fuoco da via Roma giù. Io ero giù, non riuscivo a respirare, proprio mancavi l'aria, era una cosa. Poi sono salito su, c'era tutto bloccato, c'erano i vigili del fuoco innaffiando in modo da tenere stabile il gas per non farlo esplodere. Ma una cosa allucinante, su in officina da me non si poteva respirare, ma proprio sembrava quando in casa apri la bombola del gas e te la lasci aperta, un odore in proprio mi faccia male la gola. Ma è successa una cosa del genere? Se qualcuno per sbaglio butta qualche scintilla o qualcosa del genere esplode tutto, quindi. Meno male hanno innaffiato tutto i vigili, sono stati una mezz'oretta e hanno risolto il problema. Ok, di nuovo a te Francesco, che farei girare subito dopo per Claudio Di Muros. Sì, ce ne sono tutti che vanno a giocare con le cose pericolose, sono attenti a qualcuno di quelli che gioca con i gas, va a finire che sono canarie e dopo non ci riprova più. Vabbè, che parlato di gente ignorante. Va bene, prendi Claudio, sei cambio. Sì, cappa, qualche ora, non per i conosci, e tutti gli altri accompagnano, e perché è una cosa da poco trovare, perché è un piatto, capito, e si è venuto a fare i controlli, e quello che cos'è, un po' di giornalismo, si è trovato. Ma torni un secondino di bianco, dillo che sto uscendo un attimino a rispondere. E via. Alle 24 di oggi fino a giovedì 30 settembre. Non è pericolosa quanto per la salute per il momento. momento, a modo che non si metta a piovere e ti prende in pieno e ti trovi i pantaloni come la parecchia. Sta avanzando dunque, aspetta un attimo, vabbè quello è 4 metri all'ora di là. Mancava solo quel vulcano, era piccolo e male, già passa tutto quello che stiamo passando, là, avanti. Tutti spariti. Eccomi, ci sono ancora, c'è qualcuno su 10? Ci sono ancora, stavo guardando la nube tossica che è arrivata oggi, ci ha già preso in pieno la Sardegna e sta andando verso la Sicilia. Meno male che non ci ha fatto niente. E ormai è già tutta scombussolata, magari se sei vicino lo zolfo lo senti, ma qua siamo troppo lontani. E fino a giovedì ce l'abbiamo, figurati. Da stamattina fino a giovedì. Sì, non c'è problema, dai. Fussa ne che si rimane. Ok, chi è rimasto qua? Francesco c'è ancora? Roger, ci sono, scappa, nube tossica, anche quella ci voleva, vero? Perfetto, ogni tanto ce n'è una in giro. Aveva un po' il cavolo di Covid, che non finisce più. Pare che sia il naturale durante adesso questa nube tossica, vabbè. L'importante è che non succeda niente, è un po'. Va bene, riprendi Claudio, te cambio, dai. Sì, quattende durante, grazie per il mare. Io penso che il primo perché è una quattone, non so se è piove, perché queste giornate sono un po' così, io dove quando guardo le tecnologiche nel telefono, ma sono un po' le cambiate, perché non so come viene, perché si mettono, perché a volte dicono che fa temporale, perché sono nuvoloso e queste cose qua, quindi mi sono fatto un passeggiato di un'istruzione, perché stavo vedendo che non posso più dire fine settimana, perché se sono qui e faccio anche oggi, perché mi sono cercata la radio, perché mi è arrivata oggi questa, e insomma già perché mi sono fermato che stanno molto bene, perché sono molto in due con la gestione, e sono per dire che essere il microfono da capo, perché non devo parlare, se non ero, io ho detto il video, perché la gestione, e anche le mie fa parte della corrente, sì, boh. È un po' così il cielo, sembra che voglia piovere, poi invece c'è vento, è un po' strana questa giornata, insomma, a parte quello dell'altro giorno che mi ha pettinato tutta il prato che c'ho vicino a casa, figurati, via Carlo Felice, sembrava tutto pettinato da trompettine, perché sento questo vento forte, ma non ci avevo mai pensato che fosse successo una cosa del genere, avrei preso in pieno da Stassardo, da Teloce, eccetera, eccetera, che mi ha portato giù un bel po' di tetti, ma era male non abbia preso in pieno a me l'antenna, se no l'avrei trovato parabola, l'antenna tutto quanto in terra mi sarei trovato. Comunque Claudio, se tu vuoi una previsione scaricati l'applicazione, si chiama Morecast, è scritto Milano, Otranto, Roma, Empoli, Cagliari, ancora una traccia di Torino, Morecast, poi imposti la città che vuoi, ci sono anche le webcam in diretta, per dire vuoi andare a Tintino, ti fa vedere com'è in quel momento lì, esatto, Tintino, qualunque parte del mondo, ed è precisissimo, io ce l'ho già scaricato da un po' di tempo, è molto molto preciso. Sì, sì, un'applicazione, però è dettagliatissima, ci sono le webcam, ci sono tutti i grafici, eccetera, c'è il radar meteorologico, è veramente fatta bene, io sono molto attento a queste cose perché mi serve per tante cose, ti dà tutto, perfetto, ti metto. metti la città di Sassia, per dire, devi andare a Olbia e sapere com'è il tempo, in tempo reale Olbia, ti fa vedere la webcam, vedi il mare, eccetera. Ci sono le telecamere in tutto il mondo, anche per dire, puoi vedere com'è nell'Antartide adesso, e c'è la telecamera anche di lì, ti dà in tempo reale e l'indicazione della temperatura e il tempo, se sta piovendo, eccetera. E vedi proprio la fotografia, l'immagine nell'arco delle ultime 12 ore, per cui puoi tornare in chiesa indietro e puoi vedere come era la giornata, per dire, 12 ore fa, e te lo fa vedere. È molto interessante, è il più preciso di tutti perché è fatto dai francesi, e sono sulle previsioni meteo, sono molto, hanno dei sistemi molto aggiornati, all'avanguardia. Ce ne sono anche altri nel mondo, però qua nel Mediterraneo le previsioni migliori te le danno loro, che sono connessi con tante stazioni e fanno diversi rilevamenti. Cosa ci vediamo le ragazze nude in questo me la bagno? E oggi ho fatto un po' di caldo, e domani sono 26, è previsto domani pomeriggio qualche schizzo di acqua e qualcosa sabato, però niente di importante. L'altro giorno il vento con la turbolenza che c'è stata, con la tormenta, io non mi sono manco accorto, ci credo, deve essere passata da altre parti, perché la Teroccia ha fatto danno a Coso, ad Alghero, non ne parliamo, che sono andato a prendere mia figlia, ha capovolto anche uno di quei piccoli ripetere, proprio l'ha capottato, hanno ritardato il rientro dell'aereo di mezz'ora proprio per questioni di vento, di rischi di vento, però fortunatamente non ci sono stati danni alle persone. No, la Teroccia ha fatto un bel danno, ma un bel. Poi anche questa sala addirittura ci è uscita, figurati tu, qua è passato quel vento, ma forte, però la madre non ha fatto niente alla Mantova, a me, però ho visto tutto l'erba che c'è in via Carlo Felice, partendo da via Valda Basso, sempre via Carlo Felice, sembrava che l'avessi pettinata col pettine, figurati. Di lì ho visto, quando ho fatto questo canale all'aeroporto, la strada di Tutubella, c'erano tutti gli alberi scoperchiati, buttati in terra, c'era l'anatra infatti deviando il traffico, c'era un sacco di rame, fogliame, sembrava detto che fosse passato cacchio un mare, un terremoto, un uragano, però non ci ho fatto caso all'inizio, poi ho visto i video che hanno fatto, ho detto cacchio, la gente ha fatto un bel di danno nel porto, nel pezzo di coso del Lido, Maria Pia, la zona lì sembrava cacchio un uragano. Normalmente ne ha pisolato tutto. Di nuovo a te Claudio. Su Facebook già ci sono delle antenne. Ma 160 euro la sta vendendo. Io ho parlato con questo amico di Cagliari, mi ha detto che a Cagliari si trova la Mantova, mi ha detto se ti interessa me lo dici e te la faccio avere io. li prendo io, scusa Antonio. Sì, vai. Allora, questo qua la sta vendendo 160 euro, tieni presente, poi devi pagarti la spedizione, siccome è un pacco con quello ingombrante non ti chiederanno meno di 30 euro. Però se ti interessa la Mantova, c'è un amico di Cagliari e lui mi ha detto che a Cagliari te la busca, perché si riesce a trovare. Thank you. passaggio. Aspetta che c'è Luca, facciamo entrare avanti Luca. Buonasera, non so se mi ascoltate. Non è la radio Luca, è una bomba con la radio. Ciao a Claudio, se mi ascolta, avanti Claudio. Ciao, saluto anche a te. Ciao a Roberto, avanti Pomponio. Ah, Pomponio sta berrettando. Questo cos'è Luca, quello famoso? No, questo è il 2009 con l'MP più 4. Una bomba, spinge che è una portenza. Veramente è bella, bella modulazione. Se è troppo alto dimmelo che l'abbasso. È bella. Ehi Claudio! Ciao Luca, ecco non ascolto già, ci sentiamo un altro momento, ciao a tutti. Ciao Claudio, avanti Roberto. Sì, sì, se non alzi la voce va benissimo, molto potente, chiara e pulita. Ciao Claudio, ogni tanto entra l'orecchio di porco, fa lui. Ok, se non alzi la voce va benissimo, se strilli un pochettino leggermente va in cosa, in saturazione. Comunque, bella radio, complimenti, ottima. Andare, no, grazie, avanti Claudio. È più che ottima, è segnale 6-5 da me. Ok, buonasera Luca, allora ben sentito Saltoni, poi sto arrivando con un segnale di tu c'è DT qua, sono io, ho DT a segnale di, a Santiago 4, Radio 4, ok, molto chiara. Perfetto, evidentemente stai muovendo un po' lontano dal microfono, ok, perché la modulazione è stata buona. Poi Radio 4, perfetta. Va benissimo. Perfetto. Avanti Luca, riprendi. No, sono vicino al microfono, vai a cuccia dea, vai mi rompi le patte da lì, vai via. No, sono vicino al microfono, non lo so, boh. Mi sta arrivando il segnale quasi 4 e radio 3, avanti, riprendi. Ok, negli stacchi di modulazione qua lo stato è di segnale, te lo moduli 6-0, sali a picchi a Santiago di 3, ok, ripeto la radio 4, ok, non lo so, tutto qua, riprendi Claudio, sei cambio, dai. Perché io per Sassari sono un po' chiuso e poi lui non so che zona sia, anche di Sierra Sierra, quindi non lo so, vabbè, comunque arriva quel segnale lì, arriva quel segnale lì, dipende anche come c'è l'antenna, tutto dipende da ciò che dipende, da che dipende, non lo so, vabbè, tutto qua, riprendi Roberto, c'è il cambio. No, vabbè Luca, poi arriva, non va più 30, non c'è problema. No, probabilmente l'ambiente non è favorevole per le tue parti e ci avrà qualche blocco, qualcosa che lo ostacola. Qua arriva fortissimo, uno dei più forti in assoluto, Luca, da sempre, uscendo pulito naturalmente, poi qualcuno si aiuta e più o meno arriva il segnale suo. No, ma qua sta arrivando tutti forti. Muro su 9+20, tu sei 9+15, non parliamo di Antonello che arriva a 9,60, Claudio 9,35, qua arrivano Claudio, parlo Sparviero. State arrivando tutti a bomboletta, non ce n'è neanche uno qua con segnali inferiori a 9. Tra l'altro io da 7 in poi in giù non li ascolto i segnali, perché QRM qua permanentemente è 6-7, per cui se c'è un segnale di 6 io non lo ascolto. Sì, ma infatti Robert, a me arriva più forte Claudio che lui, Probabilmente lui non è molto aperto per le tue parti, anche io per essere ausilio lui dovrebbe arrivare molto più forte. Muro su, che è più lontano, arriva molto più forte di lui. Va bene, ok, io vi devo lasciare perché mi hanno chiamato a mandigare, ci sentiamo in altre situazioni. Ciao a tutti, ciao, facciamo l'ordine di arrivo. Luca l'ultimo entrato, ciao Luca, ciao Antonello Pompugno, ciao Claudio Di Muros e ciao Francesco D'Ausilio. Correte da parte mia, buon proseguo a tutti, ci sentiamo alle prossime. Ciao ciao. Ciao Roberto, ok, da adesso lui stavo per chiudere pure io perché devo prendere anche a mangiare, da, mi ha fatto piacere, Roberto, alle prossime, ti ringrazio per il tuo gioco, per il tuo carica quando la fai, e anche io da se ascolto il finalino con lui, anche io basta che chiudo perché devo prendere, da, mi ha fatto piacere, Roberto, riprendi Luca. Ciao, dai, va bene, ciao Roberto, alla prossima. Ciao anche a te Claudio, salutoni, neanche io mi sposto, dai, vado a mangiarmi qualcosa, stavo mangiucchiando, Ciao anche a te Francesco, salutoni, riprendi tu e vabbè, poi li lascio acceso, però mi sposto da camera, dai, a più tardi, ciao, alle prossime, avanti. Ok, yes. Ciao, Roberto, buona cena e buon proseguimento di serata, dai, sentiamo le prossime. Perfetto, ok, niente, va bene, vediamo un po' se c'è Antonello. Antonello, ci sei? No, Antonello non c'è, va bene, riprendi tu, Claudio, adesso qualche altro passaggio e chiudo anch'io, Perfetto, dai, riprendi che a te il Claudio. Sì, 5 per Francesco, sì, e anch'io ne approfitto per chiudere, da, perché devo scendere a caricare con batteria, da. Mi ha fatto piacere, Urania, da, ho provato l'apparato, grazie per avermi dato la possibilità di andare a trovare questa radio, che l'abbiamo aiutata, visto che sta andando bene, cercando di migliorare la simulazione, con altro microfono, da. Mi ha fatto piacere, da, ok, anch'io faccio un po' di chiesa, saluto a te, a tutta, per tutta. Ok, perfetto, allora buon proseguimento di serata anche a te e buona cena, ok, salutami, ripeto, sempre a trattare e tanti saluti da parte mia, mi dai, ok, perfetto. E anche io chiudo, però ti volevo chiedere una cosa, che visto che poc'anzi hai detto che sei uscito in bicicletta, che tipo di bicicletta c'hai tu? Facciamo un giro, Ok, va bene, non si può intrattenere, visto che deve andare a cena. Buona cena allora e proposito di serata, e saluto anche al tuo gringolone, capa, ciao ciao. Ciao ciao.